Siamo in compagnia di Tamara Bartolini. Tamara, ben ritrovata. Con te per parlare della terza stagione di Red Reading in un luogo nuovo, il Teatro di Villa Torlonia, dal 30 marzo al 14 giugno con quattro incontri. Ci racconti, Tamara? Sì, certo. Allora, torniamo con il progetto Red Reading. E sì, come dicevi, questa è la terza stagione. Il progetto procede per cicli ed episodi e noi eravamo arrivati al decimo Red Reading nel 2015, in quella 3 giorni a Carrozzeria Notte, e riprendiamo proprio dal decimo Red Reading. In questa stagione che ci vede insieme a 369 gradi, una nuova collaborazione col Teatro di Roma, al Teatro di Villa Torlonia, sono 4 mesi, 4 appuntamenti, 4 libri da cui partire per fare quello che fa il Red Reading, cioè in qualche modo questo rito collettivo che fa incontrare il teatro e la letteratura e che crea una traduzione sentimentale del libro. In questo abbraccio, in questo esercizio di vicinanza, ecco, che è il Red Reading. E ripartiamo dal libro Furore di Steinbeck, perché uno, perché era l'ultimo Red Reading, e due, perché Furore ci sembra che sia il giusto modo per ricominciare, visto che è esattamente la fotografia di tutto quello che sentiamo urgente in questo momento. Considerato anche Tamara che è l'edizione integrale finalmente. Esatto, finalmente è un'edizione integrale con una nuova traduzione di Sergio Claudio Perroni che riporta libero questo libro dalla censura poi del fascismo, quindi ci sono insomma interi capitoli che sono stati tradotti e c'è tutto, cioè rileggerlo è stata proprio una folgorazione, c'è il nostro mondo, c'è la precarizzazione del lavoro, la fuga dei migranti, dei cervelli, la disoccupazione, lo spossessamento della terra e dei rapporti umani. E però c'è anche qualcosa che Steinbeck indica come una linea in avanti da seguire a partire da questo furore, che è un sogno, una visione, una possibilità di costruire un nuovo modo di coabitare su questa terra. E è questo noi che mette al centro in qualche modo il personaggio di Tom Jodd e dicendo proprio, e questo è uno dei pezzi che peraltro era stato censurato, ci sarò sempre, nascosto e dappertutto, sarò in tutti i posti, dappertutto, dove ti giri a guardare, dove c'è qualcuno che lotta per dare da mangiare a chi ha fame, io sarò lì. E poi continua, continua, sarò lì, no? Dove c'è bisogno, dove c'è ancora la possibilità di trasformare e costruire qualcos'altro. E questo ci sembra interessantissimo proprio in questo momento, ecco, dove un po' ci si sente, come dire, schiacciati, no? E quasi impossibilitati ad agire rispetto a tutto quello che crolla intorno a noi. Invece questa strada che lancia Steinbeck, incredibilmente dal passato, la prendiamo e proviamo a intrecciare fili di ragionamento dentro questo luogo che per noi è il Red Reading, che è appunto un dialogo non solo con il libro e con il teatro, ma anche con tutti gli ospiti che poi noi chiamiamo ogni volta sul palco a ragionare con noi, ad aprire appunto finestre, visioni e possibilità insieme, no? Di creare questa casa Sì, ecco, infatti con volevo proprio chiederti se la formula mantiene la musicazione di Michele Baronio e poi gli ospiti che di volta in volta scegliete per il libro, l'appuntamento con il libro. sì, allora sicuramente ci sono delle cose che restano ed è questo, appunto, questa lettura fatta di parole, di musica, di immagini che c'era e che continua ad esserci e che si apre ancora una volta agli ospiti che sono a volte sono collegati al libro, a volte no, a volte sono collegati all'urgenza che noi abbiamo nei confronti del libro e di quello che il libro ci ha ispirato, perché poi è questo, no? È proprio un dispositivo. E poi si apre però in Red Reading questa volta anche una collaborazione nuova con l'arte contemporanea, con l'artista Elena Bellantoni, che porta dentro un progetto che si chiama Il Coro, insieme alla Wunderbar Cultural Project, ed è un progetto che vedrà ospitare all'interno volta l'opera di un'artista contemporanea. E partiamo proprio da lei, con un lavoro che ha fatto proprio appunto sui migranti su questo spaesamento e niente, quindi continuiamo in realtà anche a riformularlo, a rimodularlo questo Sì. progetto, proprio anche grazie a queste collaborazioni. Allora, la scelta degli altri tre titoli, Tamara? Allora, diciamo che dopo il cult che è furore, abbiamo scelto di inserire dentro il percorso due autori contemporanei che lavorano alla scrittura in modo, secondo noi, anche molto proprio contemporaneo e ibrido per certi aspetti. E visto che tutta la terza stagione racconta in realtà, a partire sì, anche da Furore, di come la storia in qualche modo converge al presente, di generazione in generazione. E quindi abbiamo scelto Alberto Prunetti con due libri, Amianto, e l'ultimo che sta per uscire proprio tra qualche giorno, 108 metri, The New Working Class Hero, e quello di Rosa Mordenti, Al centro di una città antichissima. Sono i due libri che stanno all'interno in mezzo, diciamo, tra il primo che è Furore e l'ultimo che invece è Ho costruito una casa da giardiniere di Gilles Clément. Partiamo da questo grande classico e ci apriamo a questi due scrittori per intrecciare in fondo la biografia e la storia anche del nostro paese, per arrivare a Clément e alla costruzione di questa casa che è metafora e possibilità del nostro stare al mondo, che in realtà secondo noi attraversa un po' poi tutti e quattro i libri e anche un po' i temi su cui noi abbiamo lavorato tanto in quest'ultimo anno nelle nostre produzioni. Cioè, attraversiamo tante strade, la terra, il lavoro, la malattia, cioè il lavoro e la malattia, il lavoro e la vita, la precarietà, le migrazioni, come dicevo prima, ma anche la memoria, il rapporto con la memoria, la guerra, penso al libro di Rosa Mordenti, che comunque mette al centro appunto una storia familiare, però attraversa anche un pezzo di storia del nostro paese, come fa d'altronde anche Alberto con la storia di suo padre e del lavoro e della working class, appunto. E poi arriviamo a questo libro straordinario di Gilles Clément che ci fa un po', come dire, anche tornare a cercare di capire qual è poi da dove ripartire, in fondo, no? Da quello che abbiamo, da dove poter seminare ancora qualcosa. E quindi ecco perché anche questa scelta. Sono libri che magari abbiamo attraversato, tipo Amianto, avevamo già fatto uno short reading, una presentazione insieme proprio ad Alberto dentro il Festival Attraversamenti Multipli, ed è stato un incontro molto forte, molto potente. Adesso appunto esce anche questo nuovo libro che proviamo ad intrecciare, e si può insomma creare dialogo tra i due libri, e poi Rosa, di cui avevo fatto una presentazione del libro poco tempo fa, e mentre invece il libro di Gilles Clément ha nutrito tantissimo il nostro nuovo spettacolo, dove tutto è stato preso, proprio nell'interrogarci a proposito di case, di distruzione di case, di casa mondo, e di capire da dove ripartire da queste macerie in qualche modo, no? Sì. Tamara, ci dai anche tutti i riferimenti internet per Sì, seguire? volevo solo aggiungere una cosa Certo. rispetto agli ospiti, magari lo faccio proprio dandovi queste indicazioni. Allora, il primo appuntamento è venerdì 30 marzo, sempre alle ore 20, al Teatro di Villa Torlonia. Iniziamo appunto dal Red Reading 10, lungo la linea del furore alla ricerca della terra perduta, e con noi ci saranno Renato Cionfrini e Sebastiano Forte nel percorso musicale, come ospiti, diciamo, del nostro percorso musicale, e tra gli ospiti abbiamo Daniele Caucci, presidente di Terra Onlus, Alessandro Portelli, che insomma su Furore ha lavorato tantissimo ed è un esperto proprio, Francesco Raparelli, che aveva già collaborato con noi a questo Red Reading, e già Bascego. E poi ci saranno dentro anche degli ospiti che sono, come dicevo prima, appunto questo rapporto con l'arte contemporanea, Elena Bellantoni e il suo progetto Il Coro. In realtà ospiteremo anche dei disegni curati da Laura Riccioli, attrice e illustratrice, che ha lavorato in un bellissimo progetto con il Baobab Experience, e quindi saranno accolti dentro il Red Reading anche questi volti di questa esperienza. E poi soprattutto avremo degli ospiti fissi, che sono degli adolescenti, dei giovani ragazzi e ragazze del progetto di laboratorio teatrale del Teatro del Lido di Ostia, insieme al liceo Ancomarzio, e loro ci seguiranno per tutti e quattro i Red Reading, portando dei loro pensieri su quello che noi apriamo con ogni volta con il Red Reading. E quindi saranno i nostri ospiti speciali fissi anche a portare la loro voce, la loro esperienza e anche i loro sogni, le loro visioni. E questo, insomma, questi sono i nostri ospiti del 30 marzo e anche appunto degli altri. Allora, c'è una pagina Facebook? Sì, potete trovare tutto su sia sulla pagina Facebook di Bartolini Baronio che di Red Reading, e lì trovate tutto. Noi piano piano vi sveleremo ogni mese tutto quello che si verrà costruendo intorno al Red Reading. Volevo citare che saranno con noi per tutti e quattro i Red Reading il nostro sound designer Michele Boreggi, la nostra assistente e collaboratrice, che cura anche la grafica di tutto il progetto, che è Margherita Masè. E devo dire che questa terza stagione, a cui l'abbiamo aperta con la frase di Pasolini, resterà forse, come sempre accaduto in passato, qualche sentiero, non so però chi lo percorrerà e come. È un po' proprio dentro questa frase, c'è un po' il senso di anche di queste quattro scelte che abbiamo fatto e di questo ciclo, che è proprio ragionare su cosa resta e su questo terreno da abitare, da coltivare, ecco. E per quello abbiamo voluto con noi gli adolescenti, che penso sia proprio una cosa importante. Io sono un po' di anni che sto lavorando con loro a Ostia, e mi piaceva anche questa cosa di mettere in relazione anche i due teatri, no? Sì. E creare in questo anche una rete proprio di ragionamenti tra gli spazi. Se penso che appunto il Red Reading 10 l'abbiamo creato a Carrozzerie Nostre, e che continua, no? Tutto questo anche cucire in qualche modo gli spazi della città, oltre la città, attraverso i luoghi, le persone e le esperienze, no? I percorsi. Sì. Bene, Tamara, allora ricordiamo l'appuntamento con la terza stagione del Red Reading dal 30 marzo al 14 giugno, quattro incontri al Teatro di Villa Torlonia alle ore 20, i riferimenti ce li hai dati, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, grazie, a presto, vi aspettiamo. Ciao Tamara. Un abbraccio, ciao ciao.